La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto e ben ritrovati da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Stagione autunno-inverno che entra nel vivo anche per il grande schermo, la stagione più intensa, quella che ci porterà fino alla notte degli Oscar. Già la settimana scorsa erano arrivati pesi massimi come i fratelli Coen in compagnia di Brad Pitt e George Clooney, che rivaleggiano nelle classifiche, come sentiremo fra poco, con Hancock di Will Smith. È la rivincita degli attori, una rivincita che continua questa settimana con Al Pacino e Robert De Niro di nuovo insieme in Sfida senza regole, con Julia Roberts e Willem Dafoe protagonisti di Un segreto tra noi e con Juliette Binoche ancora magica nel film Parigi di Cédric Clapiche. Parleremo di tutto questo e anche del ritorno della mummia nelle sale italiane in questa puntata della Rosa Purpurea, per cui prendiamo il via con l'audio sommario. La nostra vittima più recente, il defunto padre Connell, si è stato trasferito dappertutto, 8 parrocchie in 20 anni. Perché accanirsi contro un prete cattolico? È ovvio, non si limitava a dare solo la comunione ai bambini. È un'ora che camminiamo per il cantiere e non hai capito che sto di merda. Non sarò mai come te, un uomo normale. Completamente normale. Che significa essere normali? L'imperatore costruì la grande muraglia e sotto vi seppellì i suoi nemici. Io li chiamerò alla battaglia ancora una volta. Questi sono i morti viventi buoni, vero? Dovranno cambiare molte cose, cose importanti. Io voglio cambiare. Uno di noi doveva essere adulto e crescere nostro figlio. Bel lavoro che hai fatto. Ascoltami! No, non ho mai fatto nient'altro che ascoltarti! Io lo odio. Tuo padre ti vuole molto bene. Eccoci seduti qui. Ti avverto. Se mi troverò a scegliere fra te e un poveraccio che per colpa tua rischia di lasciare una vedova, scelgo te. Senza neppure esitare. Trascuri l'altra faccia della medaglia. Cosa succederebbe se tu mi incastrassi e fossi io a dover scegliere? Forse è proprio così che andrà. O forse non ci rivedremo mai più. E cominciamo col dire che la profezia di Robert De Niro non si è avverata. Li avete forse riconosciuti, erano Al Pacino e Robert De Niro appunto, la prima volta che si incontrarono davvero in un film. Era il 1995, l'autore del miracolo era tale Michael Mann, che era riuscito in un tentativo che nemmeno Francis Ford Coppola, perché infatti nel Padrino De Niro e Pacino non si erano mai incontrati sul set. Insomma, era il primo film in cui Pacino e De Niro, almeno per un intenso incontro finale che abbiamo risentito, si erano incontrati. Ora la seconda volta, grazie, ma vedremo se è proprio il caso di ringraziarlo, a John Abnett e al suo Righteous Kill, letteralmente omicidi giusti, tradotto in Italia in Sfida senza regole. Stavolta i due attori più rappresentativi del cinema newyorkese e americano degli anni 70 e 80 sono insieme dall'inizio alla fine. Turk e Rooster sono due anziani poliziotti della Grande Mela, non ancora in odor di pensione, ma sufficientemente vecchi per avere visto cambiare il crimine e l'America stessa. Troppi giudici mandano in libertà stupratori ed assassini per insufficienza di prove o altre bazzecole legali che fanno a botte con lo spirito giustizialista dei due. Infatti uno di loro si mette in mente di fare da sé e comincia a uccidere chi l'ha fatta franca con la giustizia ordinaria, lasciando poi un bigliettino in rima nei pressi del cadavere. Mi ha stecchito stavolta. Un certo Jonathan Van Lint, proprietario di un paio di concessionarie d'auto. Oh, cazzo. Accusato di stupro, è stato scagionato la settimana scorsa. Guarda qui. Un uomo privo di qualunque rispetto per la bellezza, lo charme e l'intelletto. Prendeva le donne, si divertiva a stuprare e non aveva il diritto di campare. È proprio il nostro uomo. Avrà perso la pazienza con il vecchio Jonathan. Lo conoscevate? Sì. I due si appoggiano moralmente l'un l'altro, si giustificano quasi, ma solo l'assassino ovviamente sa di esserlo. Il compare approva e basta. Qualunque cosa accada, non ti farò affondare insieme a me. Non devi preoccuparti, io sto bene, dammi retta. Chissà dove avevo la testa, chissà dove avevo la testa. Io lo so dove l'avevi. Stavi pensando a una bambina di 10 anni con il cranio fracassato. Ho provato a fermarti, ma sai una cosa? Ti ho ammirato quel giorno. Ho ammirato quello che hai fatto. Eri nel giusto. Però un killer che agisce con pistole recuperate dai sequestri di armi, conoscendo il passato da avanzi di galera delle vittime e sapendo sempre come e quando colpire, diciamolo, dà un po' nell'occhio. Così qualcuno comincia a pensare che possa trattarsi di un poliziotto con qualche conto da regolare. Del caso vengono incaricati i giovani agenti Perez e Riley e al New York Police Department l'aria diventa irrespirabile. Sono l'assassino e mi presento alla tua porta. O al finestrino della tua auto. E per qualche ragione tu apri la porta o abbassi il finestrino della macchina. Per me. Allora, chi sono io? Qualcuno che conosco. È ovvio che tu conosci le vittime. E fra questo e il facile accesso deduco che anche loro conoscano te. Le vittime sono tutte delle carogne, non si fidano di nessuno. Sì, ma io non solo li conosco. Io conosco tutto di loro, le loro mosse, gli spostamenti, conosco i loro orari. Ok, li stai seguendo, li stai pedinando. Non c'è arrivato nessuno. Ha ragione, è uno sbirro. No, piano ragazzi, stiamo saltando a delle conclusioni. Andiamo, è uno sbirro. Non è uno sbirro, non so un cazzo e nemmeno... Io dico di sì, è uno sbirro. Tutto sembra portare al più classico degli scontri finali, poliziotto contro assassino, questa volta a carte scoperte. C'era moltissima attesa per questo ritorno in coppia di De Niro e Pacino, ma sul grande schermo il film non mantiene tutte le promesse. E ahimè, il problema probabilmente sta proprio in questa coppia di straordinari attori. I due protagonisti sono invecchiati non solo anagraficamente, ormai i panni dei consumati poliziotti gli stanno addosso male, soprattutto nelle scene d'azione. Discutibile anche la morale ultra-reazionaria del film di John Avnet, svelata sin dal suo titolo originale, dove si parla appunto di omicidi giusti, ed espressa nel motto «Molti rispettano il distintivo, tutti rispettano la pistola». Insomma, le armi possono e devono, secondo questa morale, arrivare lì dove non arriva la legge. Il tutto a servizio di un film dalla sceneggiatura piena di stereotipi, il nero spacciatore, il poliziotto fuori dai ranghi, il tenente che non vuole avere fastidi, manca solo la polizia brancola del buio, insomma un collage delle situazioni tipo del genere poliziesco e due attori dall'icona talmente ingombrante da mangiarsi i deboli e stanchi personaggi disegnati per loro. Nuovo insieme alla Rosa Purpurea, alla seconda parte del nostro programma, si riapre con Sfida senza regole per ascoltare le voci dei due grandi protagonisti, Al Pacino e Robert De Niro. Abbiamo anticipato il nostro giudizio sul film, che non è particolarmente lusinghiero, rimangono sempre ovviamente due totem, due mostri sacri della recitazione e del cinema di tutti i tempi. Cominciamo un po' a sentire i due come hanno trovato il fatto di tornare a lavorare insieme. Abbiamo detto per la seconda volta in realtà in Hit la sfida, i due si erano trovati sullo schermo insieme nella stessa scena per pochi minuti. Questo invece è un film che li impegna praticamente fianco a fianco dall'inizio alla fine. E allora è Al Pacino ad aprire un po' le danze e a raccontare che se ci è voluto tanto tempo per tornare insieme è stato semplicemente perché le agende fittissime dei due protagonisti non coincidevano. Entrambi volevamo lavorare assieme, ci siamo detti più volte che sarebbe stato bello, ma è sempre il risultato difficile. In un paio di occasioni ci siamo andati vicino, poi sfuggivano. Questa opportunità è arrivata con la proposta proprio di De Niro. Era ambientato a New York, c'erano due poliziotti, mi sembrava interessante, un'opportunità insomma. È difficile trovare script interessanti, è sempre stato così, e così quando arrivano li prendi al volo. Tra l'altro la possibilità di lavorare insieme sembrava esclusa all'inizio nel soggetto del film, perché i due poliziotti avrebbero dovuto essere un esperto quasi pensionato e un giovane. Invece poi, come ci racconta Robert De Niro, le cose sono andate diversamente. All'inizio lavoravamo al film con l'idea che stessimo parlando di un poliziotto giovane e di uno più anziano. Poi ci siamo detti, ma perché non potrebbe essere che entrambi abbiano la giusta esperienza, che siano anziani? Io allora pensai proprio ad Al. Credo sia interessato, dissi. John l'ha contattato, io ho parlato con Al e lui ha accettato. Insomma, tutto perfetto. Le cose sul set sono andate molto bene, in maniera molto fluida, dice Al Pacino, che tesse l'elogio del famoso collega. I felt great pleasure È stato un vero piacere lavorare con Bob. Lo conosco da metà della sua vita e della mia anche. È bellissimo avere attorno un artista come lui, è generoso, altruista, e questo è molto utile quando lavoro. Chiunque abbia lavorato con lui lo dice, ed è lo stesso anche per me. Mi sento molto a mio agio con lui. Non posso pensare a un solo momento di disagio. I can't think of anything that was uncomfortable. Conferma questo clima idilliaco che si era creato sul set anche con il regista Robert De Niro. Direi che ci siamo divertiti, lavoriamo molto bene assieme. John ama gli attori e li aiuta. Ogni cosa che fa è giusta e crea la giusta atmosfera. È il modo migliore per far sentire gli attori sicuri. E poi con Al è andata benissimo. Abbiamo provato, ma comunque ci conoscevamo bene e questo ha aiutato. Ecco, questo tipo di atmosfera si riflette, credo, in tutto il film. Abbiamo parlato di sfida senza regole e adesso dobbiamo correre un po' perché ci sono altri due film in questa seconda parte della Rosa Purpurea di cui parlare. Prima però andiamo ad ascoltare la prima tranche del DVD Game di oggi. Tu come ci sei finita lì dentro? Io cercavo lavoro e ho trovato questo. È strana, è laureata. Ciao Marta! Ci do quanto vuoi, Marta. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo con il vostro indirizzo di posta privata. Il più bravo e più veloce del sabato e della domenica riceveranno a casa una copia di questo DVD. Avremo però nel corso della nostra puntata un altro paio di possibilità di ascoltare altre due tracce audio, altri due momenti di questo film misterioso. Torniamo alle uscite in sala, rimaniamo al cinema americano con un'opera prima, Un segreto tra di noi, esordio alla regia nel lungometraggio per Dennis Lee. E quanto è lungo questo metraggio, e quanto sembra ancora più lungo, molto più lungo della sua ora e 40 minuti. Ma procediamo con ordine. Dennis Lee ha avuto a disposizione per questa storia un cast che molti scafati registi si sognano. Julia Roberts, che però è anche socia del produttore, come dire, interessi privati in atti d'ufficio. Willem Dafoe, Emily Watson, Johan Gruffudd, il Mr. Fantastic dei Fantastici 4, mica pizza e fichi. Ma se fai giocare Cristiano Ronaldo, Kakà e Robinho su un campo pieno di buche e cosparso di colla, non è detto che ti facciano vincere la partita. Capita la metafora? La sceneggiatura di questo film è talmente monocorde, priva di ritmo, piena di incongruenze da rasentare il grido in sala: «Aridateci i soldi!». E che storia è? Quella di una famiglia al disastro. Family drama, dicono gli americani. Due piani temporali. L'oggi, con un professore ai limiti dello psicopatico, è Willem Dafoe, completamente fuori ruolo con il suo gilerino di lana. Un figlio scrittore di successo e una madre, Julia Roberts, che muore in un incidente stradale. Non vi riveliamo nulla di clamoroso perché succede dopo 5 minuti. Il tuo libro è bellissimo. Sì? Che c'è da ridere? Lo sai quanto costavano quegli occhiali? Ti rendi conto di quanto sono costati quegli occhiali? Lo sai, signor Saputello? Adesso basta. Smettila di chiamarlo così. Michael è già abbastanza dispiaciuto. Allora perché sta ridendo? Sarà per qualcosa che non so. È troppo intelligente lui per me. Charlie. Se il signor Saputello si ricordasse dove Puoi ha messo quei smetterla. Costosi occhiali, smettila forse di questo sarebbe così. Un Charlie. Viaggio un po' più piacevole per la miseria. Poi c'è lo ieri, quando il professore era frustrato da una cattedra che sembrava non arrivare mai e riversava le sue manie perfezionistiche sul povero figlio che accusava e incassava, e la mamma, come sempre, in mezzo a tamponare. Mi dispiace se non hai avuto quella cattedra. Mi dispiace se nessuno va a comprare il tuo libro. Mi dispiace se essere un marito e un padre non è abbastanza per te. Non ho mai detto questo, mai. Ci hai fatto l'amore. Ti ha detto le cose che hai tanto bisogno di sentirti dire. Come già in altre centinaia di film, a proposito, se doveste decidere di andare a vedere questo film, poi non perdetevi il bellissimo Rachel Getting Married di Jonathan Demme, così potrete fare i vostri confronti. Il lutto riunisce la famiglia e fa esplodere le contraddizioni in maniera viscerale. Non ci crederete, ma il film è tutto qui. Non c'è una progressione, non ci sono snodi narrativi particolarmente emozionanti, così dall'inizio alla fine. E per la serie corsa al titolo più idiota dell'anno, perché l'originale Fireflies in the Garden, Lucciole nel giardino, che rischiava di essere la cosa più bella del film, tra l'altro, è stato mutato in Un segreto tra di noi? Ma quale segreto? Non c'è alcun segreto in tutto il film, semmai un mistero. Perché tanti attori di talento alla corte di un film così banale? E abbandoniamo per un momento le uscite cinematografiche di questo weekend. Andiamo a vedere come sono andate le cose al botteghino. 7 giorni fa c'era la battaglia fra il supereroe Hancock e gli antieroi senza cervello dei fratelli Coen. Ci racconta l'esito del box office Daniela Fagion. Aria di Coen al botteghino, ma contro i supereroi, ancorché imperfetti, non ce n'è per nessuno. Perde una posizione ed è quinto, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek, che ha incassato altri 330.000 euro, sfiorando i 2.600.000. Un gradino in meno anche per un altro italiano passato a Venezia, Il papà di Giovanna di Pupi Avati, che con altri 717.000 euro sfonda il tetto dei 2 milioni. Ma tu come la vedi mia figlia? La vedo come la vedono tutti, cioè? Una ragazzina di 17 anni con dei problemi. Perde un colpo il dolcissimo Panda Po, che difende a suon di Kung Fu il suo terzo posto con oltre 1 milione e supera i 15,5 complessivi. Ed ecco irrompere in seconda posizione i divi Clooney e Pitt, diretti dai Coen, in Burn After Reading, che ha debuttato poco sotto i 2 milioni di euro, miglior esordio di sempre per un film dei due cineasti americani nel primo weekend e miglior media per sala con 4.906 euro. Questa storia non mi piace. L'hanno lasciato lì. Metti un avviso nello spogliatoio delle donne. Un avviso? Per favore. Resta primo dopo il funambolico esordio della settimana scorsa Will Smith nei panni di Hancock, 2 milioni e 4 per lui, 9 milioni e 3 complessivi e un sacco di guai sulle spalle. È un film che potrebbe avere il suo pubblico, la sua nicchia ormai consolidata, anche se non grandissima, visto e considerato come molti sequel di Colossal degli anni scorsi non abbiano poi mantenuto le attese, è La Mummia, l'ennesimo capitolo della saga ormai di questo uomo rinsecchito e fasciato dai tempi dell'antico Egitto. Il nuovo capitolo è nelle sale italiane, ce lo racconta Annalisa Misceo. La pensione non si addice agli archeologi. Indiana Jones lo ha appena dimostrato e a ricordarlo arrivano ora anche i coniugi O'Connell, che 11 anni dopo la loro ultima avventura in Egitto tornano a scontrarsi con una mummia. Siamo nel 1946 in Inghilterra. Evelyn, che in questo terzo episodio è il volto di Maria Bello, scrive libri dalle avventure vissute con il marito e Rick, ancora Brendan Fraser, va a pesca, mentre il figlio Alex, ormai cresciuto, studia all'università. Almeno così credono i genitori, perché Alex in realtà è in Cina a fare l'archeologo come papà. Guarda qui, Alex. L'abbiamo trovata, professore. È la tomba dell'imperatore dragone e del suo esercito. Ma è incredibile! Mai dire troppe bugie ai genitori, però, perché si viene sempre scoperti. E infatti mamma e papà vengono spediti proprio a Shanghai per restituire ai cinesi un prezioso diamante, l'occhio di Shangri-La. Quello che non sanno è che questo diamante scioglierà una maledizione e ridonerà il potere all'imperatore dragone, che Alex ha appena riportato alla luce con i suoi scavi. Non è lui. È un eunuco. È un'esca. Dove diavolo è l'imperatore? Circa 2000 anni prima il potente imperatore Han aveva tentato di raggiungere l'immortalità grazie alle arti della strega Si Yuan, ma le sue eccessive pretese erano state punite ed era rimasto vittima di una maledizione. Lui e il suo esercito erano stati trasformati in terracotta, ma con l'occhio di Shangri-La l'imperatore avrebbe riottenuto vita e potere assoluto. E bravo papà, hai risvegliato un'altra mummia e sulla sua tomba c'è scritto che aveva il controllo dei 5 elementi. Da questo momento in poi si scatena la valanga tra questioni familiari, le bugie di qui sopra, inseguimenti e fuochi d'artificio, papà, mamma, figlio e zio, perché c'è anche uno zio a Shanghai, finiscono fin sull'Himalaya per impedire all'imperatore di raggiungere Shangri-La. Faremo a modo mio, ai miei tempi ho steso più mummie di te. Ne hai stesa una, papà. Sì, la stessa mummia 2 volte. In questo terzo episodio a dirigere La Mummia arriva il regista di Fast and Furious Rob Cohen, che porta nel film più energia e ritmo. Se a questo si aggiunge una buona dose di autoironia e di validi attori, si hanno a disposizione tutti gli ingredienti per un prodotto di successo. Eppure, si sa, a volte una torta non riesce anche se si segue la ricetta passo per passo. Ed è questa l'impressione che si ha con La tomba dell'imperatore dragone, che dà una costante sensazione di già visto, con gli yeti, i mostri a 3 teste e persino la repentina resurrezione del protagonista che tanto ricorda quella di Sean Connery in Indiana Jones e l'ultima crociata. Insomma, un terzo episodio episodio gradevole, ma di cui non si può dire che si sentisse la necessità, anche se nel finale si intravede già la quarta puntata, in Perù. È sempre stato così per Parigi. Il suo privilegio è la costruzione permanente della sua modernità su questo conflitto fra l'antico e il moderno. La Parigi di Cédric clapisce come la Manhattan di Woody Allen. Il paragone può sembrare forzato se si guarda il clima generale del film, ma è pertinente se si considera l'amore con cui un autore guarda alla sua città. Parliamo di cinema francese in questa terza parte della Rosa Purpurea, perché arriva nelle sale italiane Parigi, una storia collettiva con molti personaggi che si muovono in ordine solo apparentemente sparso, sul palcoscenico di una città che è molto più di uno sfondo. È la vera protagonista, con il suo respiro, le sue luci, i suoi ritmi, ora forsennati, ora improvvisamente placati. Io sono malato. Ho un problema al cuore. Sembra che non mi rimanga molto da vivere. Mi piace guardare gli altri che vivono. Comincio a farmi delle domande. Chi sono? Dove vanno? Diventano gli eroi delle storie che mi invento. E questa è la città che Pierre, Romain Duris, al suo sesto film con Clapisce, guarda dal suo balcone. La guarda dall'alto, con occhi quasi divini, e vede tutti quei puntini là sotto intenti a rincorrere la loro quotidianità. Un'umanità ora arrancante, ironicamente disillusa, come quella di Roland, uno strepitoso Fabrice Lucchini, professore universitario ultra cinquantenne che improvvisamente sbanda, anzi sbrocca, come sentiamo, per la studentessa Laetitia Mélanie Laurent, vergognosamente bella. E allora l'hai abbordata? Peggio. Le ho mandato un SMS fingendo di essere un ragazzo. Che cosa le hai scritto? Sei bella? Mi fai sbroccare. A volte invece è un'umanità prossima e solidale, come quella di Élise, la sorella che sembrava perduta di Pierre, una Juliette Binoche sempre più brava al servizio del film collettivo di Clapisce senza smanie da star. Quarantenne, separata, che decide di trasferirsi coi suoi tre figli a casa del fratello per stargli vicino in questo momento difficile, e grazie a lui riscopre corde di se stessa che da tempo non vibravano più. Pensi che abbia un ragazzo? È probabile. Tu invece? Perché non ce l'hai? No, alla mia età non è più. Hai 40 anni, non sei vecchia. Tu stai bene, approfittale. Pregi e difetti del cinema di Cédric Clapisce in questo film: una certa tendenza all'eccesso nelle battute, nelle situazioni a volte troppo costruite per stare dentro un contesto realistico, tipo avete mai visto quattro profumatissime e belle signore che escono da una sfilata di moda parigina e vanno dritte dritte ai mercati generali per amoreggiare con macellai e fruttivendoli? E poi un certo compiacimento nel raccontare l'aspetto più melodrammatico della vita dei personaggi. Ma stavolta il 47enne autore parigino mostra anche una maturità visiva forse mai raggiunta prima, e ci regala un paio di scene memorabili. Ce ne viene in mente subito una, quella di uno scatenato Fabrice Lucchini che balla a ritmo sincopato, un classico soul degli anni 70 per la bella e giovane Laetitia. Girato con uno stile che ricorda il cinema di Altman, Parigi è un atto d'amore per una città che percepisce il suo declino, che non si sente più capitale come una volta, che vive di una malinconia permanente. Questa è Parigi per i parigini, un po' come Milano per i milanesi o New York per i newyorkesi. Grandi metropoli, alle prese più o meno con gli stessi problemi, vissute da gente sempre di corsa, sempre tesa come la corda di un violino, in perenne attesa di un raggio di sole. Quel raggio di sole che Pierre cerca dal finestrino del taxi che lo porta in ospedale, verso la sua nuova vita, o forse no. Loro non sanno quanto sono fortunati. Camminano, respirano, corrono, spensierati a Parigi. Io gli invidio la vita. E dalle atmosfere parigine del film di Cédric Clapisce, noi andiamo ad ascoltare la seconda traccia misteriosa del DVD Game di questa settimana. Perché voi siete persone esali! E fate un lavoro esali! E allora forza ragazze, diciamo buongiorno a questa nuova splendida giornata. Buongiorno. È un robottino multiuso, signora Mortillaro, che esegue 14 funzioni integrate in un solo innovativo elettrodomestico dal design prestigioso. Sì, ho capito, ma scusi, ma chi gliel'ha dato il numero mio? Vi ricordo ancora che dovete indovinare di quale film si tratta, scrivere il titolo all'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it. E il più bravo, il più veloce del sabato e della domenica riceveranno a casa un DVD proprio di questo film. Avremo però la possibilità di ascoltare un'altra traccia più tardi. Io mai griderò viva Garibaldi. Sono sempre stato un fedele suddito del re. E Garibaldi ve ne darà un altro. E voi sapete che cosa in questo momento il mio paese sta facendo per Garibaldi. Il regno dei Borboni muore anche perché noi inglesi lo lasciamo morire. I dialoghi che avete sentito sono tratti da Bronte, cronaca di un massacro, film del 1972, che racconta con sguardo davvero nuovo per l'epoca un episodio chiave dell'epopea garibaldina. Ve lo abbiamo fatto ascoltare perché la scorsa settimana, senza fare rumore, perfettamente coerente al suo stile di uomo riservato, se n'è andato Florestano Vancini, ferrarese, 82 anni, autore di alcuni dei capitoli più innovativi e interessanti del cosiddetto cinema politico italiano, ma non solo, è stato anche un regista di film di genere, di western all'italiana, all'inizio della carriera un documentarista, regista di grandi serie TV durante la parte conclusiva della sua lunghissima carriera. Però, tornando al cinema politico, ci sono capitoli che non si possono non citare: La lunga notte del 43, Il delitto Matteotti, il già citato Bronte, solo appunto per citarne alcuni. Vancini ha voluto che la notizia della sua morte fosse data solo a funerale avvenuto, e così è stato. E per ricordarlo noi abbiamo sentito Valeria Napolitano, che per i tipi di Liguori Editore aveva scritto all'inizio di quest'anno un libro, Florestano Vancini, intervista a un maestro del cinema. E proprio da questa definizione, spesso abusata, vogliamo partire. Perché Vancini si può definire un maestro? Valeria Napolitano. Io ho scelto questa definizione perché ritengo che appunto Florestano Vancini abbia realmente insegnato qualcosa, in particolar modo nei primi anni 60, in quello che spesso appunto viene definito cinema politico. Florestano Vancini ha saputo evidentemente dire qualcosa anche di nuovo. Lui difende film come La calda vita, come Amore amaro, come Un dramma borghese, come La baraonda, per esempio, che film che va visto assolutamente, molto poco conosciuto, che è sulla Sei giorni ciclistica di Milano. Angiola aveva solo 14 anni e a Roma gli uomini erano ammagliati da lei. Qui perdono il senno. Ma per la pace di questa corte sarebbe tempo di accasarla. Lontano da Ferrara. Anche se mi darà dolore separarmene. Questi erano invece alcuni passaggi dell'ultimo film di Florestano Vancini nel 2005, E ridendo l'uccise, che un po' sulle orme del mestiere delle armi di Ermanno Olmi raccontava il dietro le quinte della corte estense del Cinquecento. Un film che, a dispetto di una critica complessivamente positiva, non ebbe un'adeguata distribuzione. Eppure a quel film che raccontava la sua Ferrara, come anche il suo documentario d'esordio Delta Padano, Vancini era molto legato. Cosa rappresentava Ferrara per lui? Ancora Valeria Napolitano. Ferrara è un elemento fondamentale perché Vancini è estremamente legato alle sue terre, lui che è di origine contadina, e anche quando si sposterà appunto in città con tutta la famiglia, continuerà a esplorare la realtà ferrarese, che molto spesso è proprio quella contadina ed è una parte della popolazione che Vancini ama molto soprattutto indagare negli aspetti più problematici, e sia per quanto riguarda appunto la Ferrara del Cinquecento, sia anche per esempio la realtà della prima e seconda guerra mondiale, che lui mette risalto per esempio in altri film come La neve nel bicchiere. Se lei dovesse tirare fuori un film che lo rappresenta più di tutti gli altri, cosa consiglierebbe di vedere? Allora, guardi, io amo molto La lunga notte del 43, però ricordo le parole di Florestano Vancini, che mi chiedeva tanto di parlare delle stagioni del nostro amore, che è il film che amava di più e anche quello che l'ha fatto soffrire di più, perché è stato quello che maggiormente è stato attaccato da una critica, soprattutto la critica di sinistra di quegli anni. E probabilmente nell'intellettuale giornalista di sinistra di quegli anni, che va in provincia a ritrovare se stesso e trova una realtà completamente diversa e cambiata, c'è gran parte della personalità di Vancini. Mr. President, what place do you think you have in history? In history? The history will all be dead. I see trees of green, red roses too. Ed eccoci alla nostra rubrica Trailer USA, che ci porta dentro i suoni del nuovo cinema americano. La voce che avete sentito è quella di George W. Bush, o meglio quella di Josh Brolin, nei panni del 43esimo presidente americano, ormai uscente potremmo dire, nel prossimo film di Oliver Stone, un film che arriva in un momento cruciale come quello della campagna elettorale per la presidenza a stelle e strisce. Il film si intitola semplicemente W, ovvero W, costato 30 milioni di dollari, con un cast notevole: Josh Brolin appunto, Elizabeth Banks che sarà Laura Bush, Tandy Newton nei panni di Condoleezza Rice, Jeffrey Wright in quelli di Colin Powell, E ancora Richard Dreyfuss, perfetto Dick Cheney, e Johan Gruffudd, come abbiamo sentito questa settimana nelle sale, con Un segreto tra di noi, che sarà Tony Blair. Stone ovviamente non ha bisogno di presentazione, è il regista di film che conosciamo tutti. Ne parliamo in questa puntata di Trailer USA con Micaela Bellisario, che salutiamo. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, cosa ci puoi rivelare su questo film che esce negli Stati Uniti il prossimo 17 ottobre, come dicevamo, giusto poche settimane prima dell'Election Day del nuovo presidente americano? Franco, intanto dico subito che non c'è una data italiana, quindi il trailer per ora è l'unica anticipazione che possono avere gli spettatori italiani. W promette colpi di scena e molta discussione, appunto come dicevi tu, a ridosso delle elezioni presidenziali, chissà, forse getterà discredito o nuova luce, dipende dai punti di vista, sui repubblicani. Il film di Stone è praticamente una sorta di documentario su Bush, racconta la sua vita, le sfide, i trionfi, le gaffe, la sua vita intima, personale. Parla anche dell'Iraq, naturalmente, che è stato un po' il tema centrale della sua presidenza. E proprio adesso vi facciamo sentire un passo del trailer in cui, durante una riunione ristretta di gabinetto tra falchi e le cosiddette colombe, cioè tra guerrafondai e, diciamo, pacifisti, si parla di rivincita del popolo americano per giustificare la guerra. The American people want revenge. They liked Afghanistan. They want more. What do you think you are? A Kennedy? You're a Bush. Act like one. Insomma, Bush sarà per l'ennesima volta sotto la lente di ingrandimento del cinema americano. Sì, esatto, Franco. Peraltro il film si concentra anche e soprattutto sul suo rapporto con la moglie, con la fede. Si sa che Bush è un cristiano metodista, e soprattutto su un aspetto un po' ombroso della sua vita, cioè i suoi trascorsi con l'alcol e la sua giovinezza tormentata da rampollo della Texas Bene, diciamo così. Quindi adesso vi facciamo ascoltare un altro spezzone del trailer in cui lui e la moglie sono in camera da letto, o meglio, lui alla toilette, e irrita la moglie non ricordando niente. We'll never get out of Poppy's shadow. You'll never remember the son of the president anyway. John Quincy Adams. Yeah, but that was like 300 years ago, wasn't it? Perfetto, allora siamo in attesa del film, siamo proprio curiosi di vederlo. Ciao Micaela, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco. Ed eccoci giunti in fondo alla Rosa Purpurea, la quarta parte della nostra trasmissione, tradizionalmente occupata dal racconto dei DVD in uscita durante la settimana, ancora di più questa volta, perché abbiamo anche una bella intervista che stiamo per farvi ascoltare sulla figura di Akira Kurosawa, il grandissimo maestro del cinema giapponese, ma anche uno dei 5, 10, ecco, forse che qualcosa meno di 10, diciamo 5 maestri del cinema immortali di tutti i tempi, che hanno insegnato realmente cinema un po' a tutte le generazioni future. Perché lo facciamo? Perché quest'anno c'è stata la celebrazione dei 10 anni dalla scomparsa del grande maestro, che ci ha regalato film davvero immortali come i 7 Samurai, Rashomon e tanti tanti altri. E la Mondo Home Entertainment ha messo in circolazione alcuni prodotti davvero, davvero interessanti, e anche per la veste grafica e per l'impegno editoriale rispetto a questo grande maestro. Allora noi andiamo ad ascoltare un attimo un passaggio del film. Settimana scorsa eravamo stati un po' alternativi, vi avevamo fatto ascoltare 3 tracce di film diversi, dovevate indovinare di quale regista si trattasse. Allora questo è uno dei clip che vi avevamo presentato, quello dei 7 Samurai. Chi è stato? Oh? Sei stato tu, Chi si vede? Questa testa io me la ricordo bene. Ehi, rapato, tu hai avuto il coraggio di dubitare che io fossi un vero samurai? Hanno indovinato, tra gli altri, tra i tanti, non tantissimi, perché non era semplicissima magari come domanda, ma hanno indovinato Thomas Graziani di Laveno, Roberto Pace di Brescia, di Colle Beato, vicino Brescia, e Flavio Bricchi di Casal Pusterlengo, un trittico di ascoltatori lombardi che riceveranno i DVD, appunto singoli, che fanno parte di questa edizione, di questa pubblicazione del lavoro di Akira Kurosawa. Noi però ne parliamo con Claudio Pofi proprio per inquadrare un po' questa iniziativa editoriale. Claudio. Sì, Franco, la realizzazione di queste opere curatissima sotto il profilo audio e video, ricordiamo tutti e 4 i film che sono in distribuzione da Mondo, Yojimbo, Il Trono di Sangue, I Sette Samurai e Vivere, sono disponibili al meglio delle possibilità per opere realizzate principalmente intorno negli anni 50, tutte in bianco e nero, comunque di ottima qualità video, e disponibile anche la traccia, oltre che in italiano, anche in originale giapponese. Non sono presenti degli extra audio video, ma a compendio di ciascuno dei film un libretto che consente di approfondire la vita e l'arte del maestro Kurosawa. Ricordo che queste quattro opere sono tra l'altro vendute in un cofanetto a edizione a tiratura limitata di 1000 pezzi. È stato fatto davvero un ottimo lavoro di restauro a cura della Impronte Digitali. Noi parliamo di Akira Kurosawa anche con il critico cinematografico, lo storico del cinema, Aldo Tassone, che ha anche un po' curato sotto il profilo, diciamo così, intellettuale questa operazione su Akira Kurosawa. Aldo Tassone, direttore tra l'altro di France Cinéma, festival di cui avremo modo di parlare nel corso delle prossime puntate della Rosa Purpurea, ci racconta innanzitutto il profilo di Akira Kurosawa. Chi era Akira Kurosawa? Quest'uomo è da ricordare in modo particolare perché ci ha capiti meglio di tanti altri, ha portato sullo schermo delle trasposizioni in giapponese del Macbeth, del Re Lear, dell'Idiota, i bassi fondi di Gorky, insomma, ha saputo trasporre in Oriente la grande cultura europea mondiale, e a tempo stesso ci ha rivelato la natura profonda dei giapponesi, che sono da un lato molto tradizionalisti a casa loro e molto occidentalisti all'estero. Dei grandi cineasti della storia del cinema, Kurosawa è forse quello che ha saputo creare i ponti più solidi tra le culture internazionali, e questo è un miracolo. Basti pensare poi che è di fatto il creatore del western all'italiana, perché La sfida del samurai, Yojimbo, l'ha stato visto Sergio Leone e i suoi collaboratori, che gli hanno adottato quella vicenda, l'hanno trasportata in Spagna, mettendoci le pistole e i cavalli invece delle spade, ed è venuto fuori per un pugno di dollari, che ha fatto un sacco di soldi e ha dato anche un sacco di soldi a Kurosawa, perché ha vinto la causa per plagio. Un regista a cui il mondo del cinema è debitore, lo è sotto il profilo tecnico, come sentiremo fra poco, ma lo è proprio anche sotto il profilo dell'ispirazione. Aldo Tassone, cosa dicevano di lui gli altri grandi maestri del cinema? Mi ricordo Cimino, i film di Kurosawa sono i meglio scritti, i meglio montati, i meglio girati, i meglio diretti di tutto il cinema mondiale. Mi ricordo Coppola che mi diceva, ai tempi della Cerimonia Segreta, quando non lo conoscevano ancora molto, Kurosawa, tutti si possono vantare di aver fatto 2-3 capolavori, Kurosawa ne ha girati ben 9 o 10, e mi ha fatto tutta la lista. C'è un giudizio che io ho il piacere di aver estorto a Federico Fellini, lo cito perché sono 7 righe impressionanti, anche inedite. Adoro in Kurosawa lo spettacolo totale, che è insieme favola, storia, racconto, romanzo, apologo. Sento in lui, e notate chi è, Fellini che parla, sento in lui il cinema esplorato e sfruttato in tutti i suoi mezzi di espressione. Il suo cinema per me è una sorta di miracolo espressivo, e concludeva: io davanti a Kurosawa mi sento un bambino. E grazie Aldo Tassone, noi rimaniamo quindi in ambito DVD dopo aver ampiamente raccontato questa operazione sui film del grande Akira Kurosawa, perché abbiamo un altro paio di DVD di cui parlarvi. Claudio Pofi, ti richiamo in causa per raccontarci Spiderwick, però dopo aver ascoltato il clip del film. Giangoccetto, che può succedere se i goblin prendono il libro? Muoio io, muori tu, moriamo tutti e non se ne parla più. Che vuol dire moriamo tutti? Credo che voglia dire moriamo tutti. Distribuisce Paramount un DVD di ottima qualità, la storia di questa famiglia che si trasferisce da New York in questa casa isolata, che era appartenuta a un proprio zio, uno scienziato che aveva scoperto i segreti di un mondo assolutamente invisibile, e tutto verte intorno a questo libro magico. La qualità, come dicevo, del DVD è assolutamente ineccepibile. Abbiamo disponibile, oltre che l'italiano, anche l'inglese in Dolby Digital multicanale, e 3 approfondimenti sulla lavorazione. Per quanto concerne invece l'ultima proposta di questa settimana, un film molto molto interessante, una grande prova di attori, forse non ha avuto tutto il seguito che meritava, anche con gli attori importanti che ha, Steve Buscemi, Sienna Miller. Stiamo parlando di Interview, ascoltiamo la clip. Si rende conto di quanto l'ho aspettata? No, me lo dica lei. Un'ora e passa. Oh, dovevano avvisarla. Oh, dovevano avvisarmi. Non sapevo. Lei forse non lo sa, ma a Washington sta succedendo un gran casino. Il mio direttore voleva che andassi lì stanotte per essere presente alla conferenza stampa di domani. Capisco. E invece sono ancora qui. A causa sua. Titolo Fandango distribuito da Cecchi Gori per questo incontro e infatuazione di questo giornalista che si occupa principalmente di politica, deviato in questo caso a intervistare un personaggio di soap opera e di cinema. Inizialmente il contrasto tra i due è sulla viva pelle, ma poi qualcosa succede, si innesca una reazione chimica. Il film è di ottima qualità sotto il profilo audio-video, anche in questo caso doppia traccia Dolby Digital multicanale italiano-inglese. Suggerisco assolutamente di ascoltare l'originale inglese e sono previsti degli approfondimenti. Fortunatamente ci sono le immagini di Steve Buscemi presente a Roma per il lancio del film, un dietro le quinte e il racconto di una trilogia, perché in realtà Interview si inserisce all'interno di tre remake dedicati alle omonime opere di Theo Van Gogh. E allora grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana qui per parlare di DVD. A presto, un saluto. E con Claudio noi come sempre chiudiamo la nostra trasmissione, però c'è ancora, qualcuno di voi l'avrà notato, c'è ancora da giocare. Abbiamo voluto tenere in fondo l'ultima traccia misteriosa del DVD game di oggi per separarla un po' dal resto dei racconti dei DVD in uscita. Allora andiamo ad ascoltare la traccia numero 3. Io mi sono esposta per voi, questo voi lo sapevate. Avevo promesso a Claudio 2000 appuntamenti per questo mese. Credo che ne abbiamo fatti poco più di 1500. Tante grazie, ma avete profondamente delusa. Che volete diventare nella vita? Niente. Se avete indovinato di che film si tratta, la rosa purpura a @radio24.it per provare a vincere questo DVD. Le soluzioni ovviamente la prossima settimana, quando ci troveremo qui, come sempre, il sabato alle 18, la domenica alle 9 del mattino, alla Rosa Purpura per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.